if I can or not I can do rap, I can better than you, bitch. La mia stella inseguirò nelle migliori notti di primavera, una nuova era, marci, mi avete lasciato dentro il lutto in un muro che ho distrutto attraverso la mia penna tutto, e io attraverso il mio cammino mi prenderò tutto. Scriverò il vostro necrologio di ogni figlio di merda corrotto, col mio orologio sopra ogni corrotto, sopra ogni perditempo, sopra il mio dolore del tuo cemento, una lapide di cemento su te in ugual misura, marcio. Corvi aiutatemi, corvi aiutatemi, sì, corvi aiutatemi a guardare merde. Non mi potete comprare, pagarmi abbastanza. Il poeta maledetto morirà, ma cancellerà voi e vi farà passare la voglia di metterci al di sotto della stupidità. Noi siamo dignità sotto all'uomo corrotto, e freno la penna a non fare nomi piuttosto. Rimango sul generico come fate voi a condannare gli eroi. Si chiama poesia questa perché con questa si fanno amori e non dollari. Minaccerò con una penna, una mina laser, tutti gli orrori là fuori. Marci fuori, marci dentro, corrotti fino al midollo. Scriverò onirico la vera tua morte sotto. Io sotto te non puoi più fottere con una wave, la mia wave. Questo è flow, man. Sono l'ombra a cui è stata rubata la luce, e ogni persona che l'ha fatto puttana di merda, merdaiola, accecata a te e il pagliaccio, l'ercio di denari. Corvi aiutatemi, corvi, corvi aiutatemi a guardare merde, non mi potete comprare, mettermi sotto al vostro denaro illegale, pagarmi abbondanza. Il poeta maledetto morirà, ma cancellerà, vi farà passare la voglia di metterci al di sotto della stupidità, sotto all'uomo corrotto, e prenderò la penna. Genericamente vi ucciderò, non farò vostri nomi. Si chiama poesia perché con questa si fanno amori e non dollari. Minaccerò con una mina laser tutti gli orrori là fuori. Marci fuori, marci dentro, corrotti fino al midollo. Scriverò un inirico la vera tua morte sotto sto foglio, te sotto. Non puoi più fottere con una way. La mia stella inseguirò nelle migliori notti di primavera, marci. Mi avete lasciato dentro il lutto, io attraverso il mio cammino mi prenderò tutto. Scriverò il vostro necrologio di ogni figlio di merda corrotto, col mio sangue e col mio orologio. Tu sotto, sopra ogni corrotto, sopra ogni perdi tempo, dignità, sopra il dolore del tuo cemento, una lapide di cemento io metterò, e sarò muto ad ogni tuo lamento e pregherò per te lo stesso. Corvi aiutatemi a guardare merde, non mi potete comprare, pagarmi abbastanza. Il poeta maledetto incazzato morirà in una stanza nel suo studio, ma cancellerà e vi farà passare la voglia di metterci al di sotto. Noi siamo le bombe sotto, noi siamo le bombe sotto, e ora mi vorrai morto. March.